credo che debba introdurre con molte parole l'amico Giuseppe Alberico, perché qui è in casa, quasi di casa, perché è noto come oggi il massimo studioso, almeno per quel poco che so, lo scritto sul Concilio di Trento, si comincia con gli edì, ma poi subito dopo il nome del nostro amico Giuseppe Alberico. La sua produzione è notevolissima, sappiamo la sua importanza di questa produzione. Io mi ricordo il suo articolo del 1958, che ha segnato una via nuova per gli studi sul Concilio di Trento, no? Il suo avvertimento, il suo invito agli storici di interessarsi del Concilio non soltanto per sé e per quello che ha rappresentato in un certo momento nella storia della Chiesa e dell'Europa stessa cristiana, ma sotto il profilo teologico, ma interessante il Concilio come è stato applicato, come è stato vissuto, cioè proprio, diremo così, l'aspetto più umano del Concilio, e questo suo monito non si può dire che non sia stato raccolto, forse con qualche eccesso, dice Alberico, ma comunque sia, è stato accolto. È stato accolto perché lì l'applicazione del Concilio di Trento vuol dire utilizzare correttamente, eticamente, tutto quel materiale che offre all'applicazione del Concilio, dalle visite pastorali alle relazioni ad Elina, ai vari libri parrocchiali, agli stati d'animo e così via. E questo materiale consente di poter, ha sempre consentito e consente tuttora di poter guardare dentro il Concilio, di vederlo come effettivamente si è realizzato, al stesso tempo vedere la dinamica della vita sociale che è intervenuto a correggere, a integrare, ad ampliare. Certo, una visita pastorale non si fa più soltanto secondo la normativa tridentina, nessun vescovo fa più la domanda se lo stemme che sa battezzare o meno, se ci sono osterie, in quanti anni per la comunione. A un certo punto la realtà sociale di cui deve tenere conto il vescovo, perché condiziona la vita dei suoi parrocchiani, sono ben altre, non so, io penso agli effetti, mettiamo nella struttura parrocchiale dei patti migratori, che cambiano proprio il rapporto tra il parroco. E ancora recentemente, tanto per dirla tutta, per quanto la normativa tridentina, sia pure ampliata, ma sempre dalla prospettiva della cura animale, e caspita, per quanto riguarda l'età contemporanea, dopodomani avrà luogo all'Istituto Sturzo a Roma un grande convegno sulla Chiesa dell'esistenza, per capire il comportamento del credo, per capire il comportamento dei parroci, delle organizzazioni giovanili di Azione Cattolica, per capire che cosa facevano le confraternite, per capire questo comportamento, anche l'intervento dei vescovi. Bene, i libri parrocchiali, i libri cronici, quelli che i parroci erano costretti a scrivere, obbligati a scrivere, su invito della concistoriale, la quale nel 1944 chiede ai vescovi questo materiale. Ecco, l'utilizzazione di questo materiale, che è lo stesso di quello indicato nella normativa tridentina, ha consentito di poter introdurre finalmente in questa storiografia sulla resistenza ammalata dell'ideologismo, prima di sinistra, ora di destra, finalmente di inserire una certa visione al comportamento della Chiesa, del rapporto della struttura religiosa della Chiesa con la società civile, dov'è che è finita, che cos'è che è stato questo corpo. Quindi quella paroletta che che tu hai la responsabilità di aver lanciato nel 58, andiamo a vedere l'applicazione del Concilio di Trento, e questa qui è stata veramente esibita direttamente coinvolti in alcuni di questi grossi convegni, Capaccio Pesco 72, Potenza 75, 86, meno 86, Maratea ancora, con tutto un grosso convegno sull'applicazione del Concilio di Trento nella meditazione. Allora questo studio qui consente di capire, lo dico a punta, lo dico così tanto per essere più facilmente comprensibile, e cioè tutta questa storia della Chiesa che è sempre diventata la storia di pontefici cattolicesimi, che poi convergono verso una sola fede, d'accordo, ma che cosa ha a che fare una struttura religiosa del 500, 600, 700 nel mezzogiorno del Regno di Napoli giurisdizionalista con quello che c'è nel Veneto, con quello che c'è in Lombardia, sono cose assolutamente diverse anche come comportamenti, vedere certe ascendenze che continuano, che si prolungano nel tempo e che danno questa varietà che poi si traduce in una variabilità di modi di pregare. È sempre il Cristo, sempre la Madonna, però le Madonne calabresi non si contano, sono infinite. Diceva uno studioso francese, non è Rocher, che dice viene meglio l'Italia che tanto, perché in Francia noi fatto da lei sulla punta delle dita di mare le Madonna ci sono, veniamo in Italia e ci troviamo centinaia. Ecco, tutti questi aspetti qui che emergono appunto da studi fatti sull'applicazione del Concilio di Trento. Noi l'abbiamo ricordato nel mezzogiorno, l'Università di Padova, di cui mi onoro di essere stato primo, di stare primo rettore, abbiamo l'anno passato tenuto un convegno d'accordo con la Chiesa di Salerno e l'Università sul teologo celibato. E devo dire che a mio avviso, dopo la biografia di Liedini, questo è stato probabilmente il maggiore contributo a livello scientifico, in cui ci sono docenti che sono intervenuti a questo concilio, i cui atti vanno in stampa adesso, e ritengo che daremo così un buon contributo anche noi alla storia del Concilio di Trento. Io non vado oltre perché ho scritto qualche cosa che consegnerò agli altri, se si vorranno pubblicare, va bene. Io devo affrettarmi a dare la parola a Giuseppe Alberico, perché altrimenti posso rubare ancora del tempo per i prossimi, coloro che vorranno intervenire con la discussione. Quindi la parola a Massimo, a Giuseppe Alberico, per il significato del Concilio di Trento nella storia dei secoli. Ringrazio il nostro amabile e autorevole Presidente, carissimo amico De Rosa, e spero di non deluderlo, di non deludervi, perché questa volta non parlerò proprio dell'applicazione del Concilio di Trento, che non vuol dire non riconoscere oggi come 40 anni fa tutta l'importanza di questa dimensione, ma vorrei invece concentrarmi sul Concilio in sé, per così dire. Non si fa storia fuori dalla propria storia. Per questo oggi, ancora oggi, dopo 4 secoli e mezzo, è possibile rileggere lo svolgimento del Trientino nel clima post-controversistico, post-apologetico e post-confessionale, prodotto sia dalla generale deideologizzazione che dal movimento ecumenico e infine anche dal Concilio Vaticano II. Ne consegue si deve chiedere una modificazione del significato di lungo periodo del Concilio di Trento. Tenterò, forse senza riuscirci, di delineare una risposta, valorizzando le ricerche di Edin, che mostrano come non mai la loro fecondità nella misura in cui forniscono la base fattuale certa per la conoscenza del fatto conciliare che si è svolto tra 1545 e 1563. Una base sicura, in quanto fondata su una conoscenza ineguagliata delle fonti, guidata da una sensibilità storica di razza. Ma proprio perché la ricostruzione storica di Iedin merita un riconoscimento così plenario, le sue conclusioni non sono definitive, acquisite cioè una volta per tutte. È sicuramente così per la dimensione fattuale dell'evento conciliare, mentre invece la percezione del suo significato è soggetta alla evoluzione culturale. Sono proprio i grandi eventi il cui impatto si prolunga nella storia per secoli a conoscere diverse e successive interpretazioni. Interpretazioni che sfuggono alla arbitrarietà della strumentalizzazione ideologica solo nella misura in cui sanno rimanere rigorosamente fedeli ai dati fattuali. Questi criteri ermeneutici così scientificamente evocati possono essere profondamente applicati anche ai concetti cristiani, che come quello di Trento hanno conosciuto un'efficacia che ha trasceso il loro tempo. Anzi, si deve riconoscere che dopo i grandi concili ci sono state successive stagioni di ricezione e di applicazione, nel corso delle quali il significato dei concili ha subito considerevoli modificazioni. Non mi sembra perciò arbitrario trasferire analogicamente al significato dei concili la profonda constatazione di Gregorio Magno, secondo il quale scrittura crescit cum legende. Infatti non è difficile constatare come anche il significato dei concili cresca con l'approfondirsi della consapevolezza della Chiesa e più in generale con l'evoluzione culturale. Lo svolgimento, nella seconda metà del nostro secolo, di un nuovo concilio generale ha stimolato e arricchito la sensibilità critica per l'analisi delle grandi assemblee. L'occasione di seguire da vicino e dal vivo i lavori del Vaticano II ha alimentato un approccio storiografico di maggiore spessore anche per i concili del passato, nel rispetto scrupoloso della identità specifica di ciascun concilio e perciò evitando qualsiasi proiezione retrospettiva delle singolarità del concilio più recente, le nostre generazioni hanno la possibilità di interrogare le fonti su uno spettro più ricco che per il passato. Ciò implica soprattutto l'avvertenza dello scarto, questo punto vorrei fermarmi, dello scarto, del gap tra la complessità pluridimensionale dell'evento assembleare e la relativa aridità delle sue decisioni. Una corretta ermeneutica conciliare non può prescindere, lo sappiamo, da alcuni passaggi obbligati. Anzitutto è pregiudiziale una conoscenza attendibile, cioè fondata sulle fonti, di ciascun concilio come un evento unico, piuttosto che solo come la attualizzazione di un modello istituzionale o come una somma, la somma, delle decisioni che ciascuno ha prodotto. Ogni volta che si confonde questa conoscenza con quella delle decisioni conciliari ne deriva una sclerosi dell'immagine del concilio, che da fatto vivo diviene corpus inerte di norme. La domanda cruciale a questo proposito non è come si è giunti all'approvazione delle decisioni del concilio di Trento, ma invece come si è svolto effettivamente a Trentino e qual è stato il suo significato. L'ermeneutica del Trentino dipende anche, in misura elevata, dalla dimensione evento del concilio, soprattutto in considerazione che è il primo Trentino, il primo concilio generale per il quale sono disponibili fonti diverse e complementari, in una misura sconosciuta per i precedenti. L'identità del concilio, cioè, è determinata soprattutto dalla effettiva fisionomia dell'assemblea e dalla sua economia interna. La polarizzazione sul concilio come evento chiede cioè una speciale attenzione al contesto storico-culturale, oltre che ecclesiale, della sua convocazione e del suo svolgimento. Tale attenzione suggerisce anche la fedeltà prioritaria allo svolgimento effettivo della dinamica assembleare che non può che essere l'oggetto primario e privilegiato della storia del Concilio. Così si può evitare di indulgere a una ipotetica logica dottrinale che avrebbe guidato l'elaborazione di singoli problemi e documenti. Ma è inevitabile anche che un Concilio conosca diverse fasi della propria eccezione: inerzia, zero, sedimentazione, ripiegamento, fasi che subiscono variazioni a seconda che il Concilio abbia svolto principalmente funzioni di giudizio, funzioni di normativa sociale oppure funzioni di elaborazione e di indirizzo. Ogni processo di eccezione implica una appropriazione e per ciò stesso una interpretazione. Infine, è quasi superfluo ricordare che ogni concilio subisca, sia pure in misure diverse, i condizionamenti dello spirito del tempo in cui è celebrato. Secondo i credenti, anzi, un concilio risente anche dell'influsso dello Spirito Santo. Tutto ciò è innegabile anche per il Tridentino, che ha attraversato varie stagioni, nelle quali la sua immagine e il suo significato hanno oscillato considerevolmente. L'elemento permanente lungo queste variazioni plurisecolari è la continuità del segno controversista e da parte cattolica apologetico. Come si colloca dunque il Tridentino nella complessa, variegata e plurisecolare tradizione conciliare cristiana? È utile una rapida rivisitazione di alcuni dei principali momenti nei quali si è espressa la valutazione sintetica del Concilio di Trento. A ridosso della sua conclusione, come noto, Paolo Sapiens fissa l'immagine così. Permettetemi di leggere qualche riga delle pagine d'apertura dell'istoria del Concilio Trentino. Questo Concilio, scrive Sapiens, desiderato e procurato dagli uomini pii per riunire la Chiesa che cominciava a dividersi, ha così stabilito lo schisma e ostinate le parti che ha fatto le discordie irreconciliabili. E, maneggiato dagli principi per riforma dell'ordine ecclesiastico, ha causato la maggiore deformazione che sia mai stata da chi vive in nome cristiano. E dagli vescovi, sperato per riacquistare l'autorità episcopale, passata in gran parte nel solo pontefice romano, l'ha fatta loro perdere tutta interamente, riducendoli a maggiore servitù. Nel contrario, temuto e sfuggito dalla corte di Roma come efficace mezzo per moderare l'esorbitante potenza, da piccoli principi, intervenuta con vari progressi ad un eccesso illimitato, gliel'ha talmente stabilita e confermata sopra la parte arrestata di soggetta che non fu mai tanta né così ben radicata. Di cui sarà un'ispirazione polemica che è tanto trasparente da esonerare da commenti. Tre secoli più tardi, la Costituzione dei Filius del Concilio Vaticano I afferma solennemente che grazie al Concilio Tridentino, cito, benché celebrato in tempi sfavorevoli, sono stati definiti più esattamente e esposti abbondantemente i santissimi dogmi della religione, gli errori sono stati condannati e repressi, la disciplina ecclesiastica ristabilita e riaffermata, clero stimolato all'amore per la scienza e la pietà, fondati i collegi per la preparazione dei giovani al sacerdozio e infine sono stati riformati i costumi del popolo cristiano mediante una più diligente istruzione dei fedeli e un uso più frequente dei sacramenti. Da qui, continua il Vaticano I, inoltre è venuta una più stretta comunione delle membra col capo visibile e un accresciuto vigore a tutto il corpo mistico del Cristo. Da qui il moltiplicarsi delle famiglie religiose e di altre istituzioni della vita cristiana e anche uno zelo costante e perseverante fino alla fusione del sangue per propagare il regno di Cristo in tutto il mondo. È evidente la prevalenza di un'immagine analitica e nello stesso tempo apologetica del Tridentino, ispirata soprattutto ai principali, sono specie di rivisitazione dei principali decreti del Concilio di Trento. Passa un altro secolo e nel dicembre del 1963 il cardinale Urbani, allora patriarca di Venezia, durante il concilio, il secondo concilio Vaticano, in occasione della celebrazione ufficiale del quarto centenario della conclusione del Tridentino, sostiene, cito, che il concilio non solo rimane fondamentale nel segnare precisa la linea discriminante fra le verità della fede e gli errori contro di essa, ma offre motivi di ulteriore indagine e di meditazione per penetrare con riverenza nel mistero della Chiesa e della sua missione universale. La rievocazione di Urbani era palesemente dominata da un confronto analitico tra il Tridentino e il Vaticano II, non sfugge ad accenti apologetici, pur dando uno spazio notevole all'apporto della storiografia contemporanea. Infine, Giovanni Paolo II, in occasione di quella visita che è stata evocata ripetutamente ieri a Trento, ha detto che ad un sereno sguardo retrospettivo il Concilio Trentino si presenta come la grande risposta della fede cattolica alle sfide della cultura moderna e risposta agli interrogativi posti dai riformatori. Una breve parentesi per dire che mi ha stupefatto che un certo Antonio Gerardi, che non so chi sia, nella premessa a un volume recente, I tempi del Concilio, abbia stravolto completamente una tesi così palesemente acquisita. Ma ripetiamo con Giovanni Paolo II, attraverso la sua opera del Concilio, di chiarificazione dogmatica e di rilancio pastorale, esso ha tracciato le grandi linee della Chiesa per i secoli successivi, favorendo così quell'autentico umanesimo cristiano che avrebbe portato non pochi frutti nella cultura, nell'arte e nella vita religiosa e sociale. La monumentale storia di Edith ha consentito di recuperare, dopo quattro secoli, la conoscenza del Concilio come effettivamente si è svolto. Solo allora è balzata agli occhi la differenza tra la realtà storica del Concilio e l'immagine che si è cristallizzata nella cultura occidentale, indipendentemente dalle prospettive apologetiche o polemiche di cui abbiamo visto qualche caso. Questa, infatti, l'immagine che si è cristallizzata nella cultura occidentale dipende anzitutto da una serie di atti, la Professio Fidei di Pio IV, il Catechismo Romano, il Breviario, il Messale, detti Tridentini, ma redatti insieme all'Indice Brorum Prohibitorum, dopo la conclusione del Concilio, in un clima diverso e con un timbro spiccatamente romano. Tutti questi atti precedono e soprattutto condizionano la conoscenza diffusa del corpus delle decisioni tridentine. Tanto più l'evento conciliare sarebbe rimasto ignoto nel suo effettivo svolgimento, avvolto nelle brume della polemica Sarpi-Pallavicino, e soprattutto impedito la conoscenza dell'effettivo svolgimento dal cieco sequestro papale della ricca documentazione che lo riguardava sino alle soglie del nostro secolo. L'assemblea conciliare, che si sarebbe celebrata a Trento, si è inserita nella grande tradizione conciliare ancora prima che Paolo III giungesse alla tanto attesa quanto sofferta convocazione. Come ancora Iedin ha magistralmente ricostruito, la preistoria del Tridentino è essenzialmente lotta per il Concilio, cioè richiesta e all'opposto resistenza nei confronti di una riunione conciliare giudicata da tutte le parti l'unica istanza capace di risanare la cristianità occidentale. La memoria dei concili di Costanza e di Basilea, non certo quella dell'imbelle Lateranense V, alimentava questa convinzione. Altrettanto si dica per le condizioni formulate da parte luterana per accettare il Concilio cristiano, libero, in terra fresca, ispirato trasparentemente ai grandi concili dell'antichità. Quando poi il Concilio ha cominciato i lavori, la consapevolezza che l'Assemblea Tridentina si inserisse a pieno diritto nella tradizione conciliare è emersa da più parti e soprattutto nella richiesta che le sue decisioni fossero intestate al Concilio come universale Ecclesia Representans e non al Papa. Ancora, i padri si sono premurati di avere sotto mano la documentazione disponibile sui concili precedenti, come testimoniano, ad esempio, i riferimenti puntuali al Lateranense IV e alla sua decisione sulla transubstanziazione dell'Eucaristia, già ostacolo peraltro sulla via dell'intesa al colloquio di Lisbona di alcuni anni prima. Un ruolo pure importante avrebbe giocato il decreto d'unione con i copti del Concilio di Firenze. Lungo tutti i suoi lavori il Tridentino è determinato a collocarsi nel solco della tradizione conciliare cristiana. Ma la sfida dei luterani era più radicale e riguardava la stessa tradizione cristiana e non solo la tradizione conciliare. In quale misura cioè? Il Tridentino era la linea della rivelazione cristiana tradita dagli apostoli e dalle prime comunità cristiane e poi fissata nel Nuovo Testamento. Si può affermare che il Concilio ha fatto uno sforzo leale di ricerca di fedeltà nella bufera che sembrava travolgere la Chiesa romana, utilizzando certo i parametri culturali del momento. Vorrei evocare solo due argomenti cruciali. Da un lato la scelta di fedeltà al canone biblico tradizionale e l'impegno a dare all'uso della Bibbia un riferimento certo con la canonizzazione della Vulgata. Lo sforzo di distinguere tra le tradizioni apostoliche e quelle ecclesiastiche e il rifiuto di proibire le traduzioni in lingua volgare della Bibbia stessa sono testimonianze significative, ancorché poi travolte dal successivo clima controversivo. Un altro polo della fedeltà alla tradizione, malgrado l'innegabile pressione della polemica riformata, fu costituito dalla resistenza opposta a sanzionare conciliarmente il primato papale, malgrado l'esistenza del precedente fiorentino. Le insinuanti proposte romane a questo proposito sono cadute significativamente nel nulla. Il Concilio si è attenuto al criterio di non entrare in questioni ancora controverse tra gli stessi teologi cattolici. I concili medievali avevano spesso prestato un'attenzione puntuale ai problemi emergenti della società cristiana, impegnandosi a rispondere a una miriade di problemi sociali mediante una puntigliosa regolamentazione confluita poi negli ultimi libri del Corpus Iuris Canonici. Si può dire che la società europea tardo medievale fosse retta in considerevole misura dalla legislazione conciliare. Non è dunque improprio interrogarsi sull'attenzione prestata dai padri tridentini agli scottanti problemi aperti nella società del loro tempo, nella quale era in atto una transizione epocale determinata, come sappiamo, dall'invenzione della stampa, dalle grandi scoperte geografiche, dall'umanesimo, dal ruolo inedito svolto dal capitale finanziario. Ma al Concilio di Trento c'è stata la percezione di tutto questo? Oppure la concentrazione sulla risposta alla protesta ha emarginato ogni altro problema? Anche a questo proposito può aiutare qualche pesce. È interessante che le cattoliche, tenute in apertura dalle congregazioni generali, vi corressero preoccupazioni per la decadenza della Chiesa. Non occorre cioè attendere il 1562-63 per trovare testimonianze della consapevolezza dei padri conciliari circa le lamentevoli condizioni in cui versava la Chiesa, anche se tale consapevolezza non sa ancora, in quegli anni, esprimersi adeguatamente in decisioni coerenti. Anche un prelato di orientamento piuttosto conservatore come il Pichino non esita a scrivere verso la fine del 1547 che solo con la riforma si riuscirà, cito, ad accontentare Dio e il mondo. È anche più significativa la ripetuta denuncia della pratica della schiavitù e delle conversioni forzate di massa in atto fuori d'Europa, se non tutti, certo parecchi dei membri del Concilio e soprattutto i domenicani portoghesi mostrano di avere informazioni precise, percepiscono lucidamente la contraddizione tra questi comportamenti e la fede cristiana, e non hanno remore a esprimere la loro condanna. Tuttavia, sarebbe fuori luogo non avere presente come si fosse ancora in regime di cristianità il fatto che vi fosse un nutrito stuolo di oratori, ambasciatori, dei principi, accreditato presso il concilio, ne era una imprescindibile documentazione. Erano loro, gli ambasciatori dei principi, il tramite esclusivo e gelosamente rivendicato per i contatti del concilio con i problemi contemporanei. Era inimmaginabile che il concilio tematizzasse direttamente qualsiasi problema sociale. Non erano più i tempi di Innocenzo III o di Innocenzo IV. I ruoli sono rovesciati e semmai erano i principi, e soprattutto l'imperatore e i grandi sovrani di Francia, di Inghilterra, che si sentivano responsabili del buon ordine ecclesiastico. Attento, ben al di là di quanto si possa evincere dalla compattezza delle decisioni ufficiali, il concilio ha vissuto della ricchezza e anche delle difficoltà portate dalla compresenza nel suo seno di tradizioni culturali, di correnti teologiche e di esperienze pastorali diverse. Né si può trascurare l'avvicendamento generazionale che lungo i 18 anni della sua durata si è verificato tra i suoi componenti. È solo con la storia dell'Ojedin che è stato possibile recuperare plenariamente questa dimensione dell'assemblea, prescindendo dalla quale si ha un'immagine caricaturale e completamente falsa del concilio. È interessante e l'autorevolezza sacra del concilio sia stata tradotta anche in rappresentazioni artistiche caratterizzate quasi sempre da un ieratico immobilismo, rappresentazioni che hanno contribuito ad accreditarne l'immagine monolitica. D'altronde, gli stessi scarti di lessico e talora anche di ispirazione profonda, che pure esistono anche nel corpus delle decisioni tridentine, cominciano solo ora essere approfonditi rigorosamente mediante l'utilizzo dei raffinati lessici romagnesi, finalmente disponibili anche per il concilio di Trento. Per giungere a cogliere il significato del tridentino, mi sembra indispensabile operare preliminarmente una disaggregazione del concilio, superando l'immagine monolitica cristallizzata dalla tradizione post-tridentina di ispirazione romana. Si tratta di riguadagnare l'importanza di una periodizzazione di ampio respiro, che cioè non sia appiattita solo sulla tripartizione dei periodi di celebrazione, rispettivamente sotto Paolo III, Giulio III e Giulio IV. Anche a questo proposito non si può prescindere dalla struttura della storia dello Ojedin, che vi ha premesso un ampissimo volume sulla preistoria del concilio. Non c'è dubbio che originariamente si pensava a un concilio di unione e di riforma, anche se poi, man mano che il concilio si avvicinava alla celebrazione, è venuta prevalendo la formula fides et mores, che si era via via affermata nell'età di mezzo, con la conseguenza di mettere in ombra l'istanza di unione. Questa istanza passa progressivamente in secondo piano a causa dell'infuriare delle controversie ed è definitivamente sepolta dall'insuccesso dei colloqui di religione culminati nel fallimento di Ratisbona. E così, le attese degli anni 20 e 30, forse anche a causa di una inadeguata riflessione teologica sul valore dell'unità della Chiesa e sui mezzi per assicurarla e ripristinarla, appassiscono e sono sostituite da atteggiamenti sempre più intransigenti che esasperano i fattori di divisione a danno degli elementi comuni. La tradizione latina e quella germanica del cristianesimo si scoprono reciprocamente alternative e incompatibili, invece che complementari. Dopo la convocazione del 1536 non si può parlare di preparazione del tridentino, nel senso che questo termine ha avuto alla vigilia del Vaticano I, tanto più del Vaticano II e mi pare di capire oggi anche in vista del Santo Concilio delle Chiese Ortodosse. E tuttavia non è infondato interrogarsi se il Tridentino si sia aperto finalmente nel 1545 nella prospettiva di dare una risposta cristiana ai tempi nuovi che incombevano, o invece nella prospettiva di rispondere ai dilaganti errori di Lutero e dei suoi, in modo da fare chiarezza tra errore e verità e da arginare la protesta che sembrava travolgere tutto e tutti. Occorre riconoscere che è un'alternativa piuttosto nostra che dei contemporanei. Infatti sia i romani che i protestanti erano convinti che un concilio fosse necessario come suprema e inappellabile istanza di giudizio delle loro controversie e insieme come unica autorità capace di interrompere la spirale di decadenza che affliggeva la Chiesa. Chi intuiva i tempi nuovi e aveva una sensibilità rinnovata come Erasmo da Rotterdam, per fare un esempio per tutti, non collegava queste esigenze al concilio. Anche quando durante il Tridentino si manifestano inquietudini che trascendono il contrasto con i protestanti, esse non sfociano in una dilatazione degli orizzonti del concilio. La cornice entro la quale l'assemblea tridentina si iscrive resta quella, cito la formula usata dai legati il 13 dicembre del 1545 per aprire il concilio, ad incremento ed esaltazione fini e religioni cristiane, ad estirpazione eresu, ad pace ed unione ecclesie, ad reformazione in cleri e popoli cristiani, ad depressione ed extinzione ostium cristiani nostri. A partire da quella domenica gaudete, il concilio ha avuto uno svolgimento graduale e differenziato. Niente affatto monolitico, articolato non solo politicamente le tensioni tra l'impero e la Francia, le oscillazioni tra concilio e repressione armata, ma anche è stato ricco e pluralistico dal punto di vista teologico e culturale, nel confronto tra spirituali e curiali e soprattutto tra la teologia scolastica e quella di ispirazione biblica. Altrettanto significativa è l'accentuata articolazione sul piano istituzionale, come mostrano la controversia sulla continuazione o meno tra un periodo e l'altro, e poi le perplessità di Paolo Medici, se accettarne tutte le decisioni e le loro resistenze dei sovrani nei confronti dell'applicazione di quelle decisioni ai rispettivi regni a concilio concluso. Negli anni 1545-47, il primo periodo del concilio, domina l'attenzione alla Germania e a Lutero. È particolarmente forte una sensibilità umanistica, trova spazio in un impegno dottrinale creativo che culmina nel decreto sulla giustificazione. Le resistenze contrarie alla riforma e convinte che fosse sufficiente una reiterazione delle norme tradizionali bloccano le proposte riformatrici. Cresce, alimentata anche da questi contrasti, la coscienza conciliare. I vescovi per un intervento erano pochi e disorientati, sopraffatti dalla sciagura di una frattura dell'unità religiosa dell'Occidente di cui neppure spesso si capacitavano. Incerti se il Papa volesse veramente il concilio o se invece non li ritenesse spinti da uno zelo eccessivo e poco apprezzato proprio per il fatto di essere venuti a prete. Dopo lo sterile parcheggio bolognese e il lungo limbo imposto dal progetto imperiale di una guerra risolutiva, il secondo periodo del 1551-52 prima è paralizzato dalla speranza nell'intervento dei prelati tedeschi e dei rappresentanti protestanti. Quando finalmente è animato dalla breve presenza dei tedeschi, sia cattolici che protestanti, ne è però condizionato nel senso di una maggiore rigidità antiprotestante, imposta dal confronto diretto e dalle esigenze di salvaguardia della propria identità confessionale avanzata dai prelati tedeschi nell'uno e nell'altro senso. Nel terzo periodo, Pio IV, dopo la pausa imposta dall'allergia al concilio di Paolo IV, è ormai dominante l'attenzione per l'area mediterranea, unica ancora cattolica, mentre la pace di Augusta ha sancito la frattura del cristianesimo germanico. La presenza consistente di prelati spagnoli e francesi agevola l'approvazione dei principali decreti riformatori. L'attività dottrinale, invece, è egemonizzata dal clima confessionale che favorisce la prevalenza di elaborazioni scolastiche e controversistiche. per paradossale che sia. Oggi la prospettiva storica sembra confortare il punto di vista di quanti allora erano contrari a riconoscere la continuità di un unico concilio dal 1545 al 1563, a scapito della saggezza di quanti, come Murone o il Borromeo, si batterono perché le decisioni di vari periodi costituissero un tutto unitario. La bolla Benedictus Deus, con la quale Pio IV approvava e promulgava quanto il Concilio aveva deciso, sia nella fede dottrinale che per la riforma disciplinare, aprì il lungo e complesso periodo di attuazione di quelle decisioni. Decisioni che costituivano la rilegittimazione del cattolicesimo romano, come intuirono quanti si opposero alla loro integrazione nel corpo iuris canonici, a differenza di quanto accaduto per i decreti dei concili medievali. Il corpo studentino cioè doveva restare immune da contaminazioni di qualsiasi genere, tanto più la sua interpretazione, che doveva essere sottratta alla normale dialettica ermeneutica e fu riservata a una speciale congregazione cardinalizia, embrione della futura congregazione di Concilio. Erano anzi palesemente ambivalenti. Da un lato sottolineavano l'importanza del preventivo e l'impegno a garantirne una fedele osservanza senza eccezioni, ma da un altro lato costituivano le decisioni conciliari una condizione inerte, separandole dall'evento conciliare che le aveva prodotte e sottraendole al contesto storico. Il corpus tridentino doveva trovare uguale applicazione nelle diverse aree culturali come nelle diverse epoche. La fresca immediatezza con la quale la documentazione coeva e soprattutto diari come quello dell'uditore Gabriele Paleotti testimoniavano le vicende dell'evento conciliare passa presto in ombra. L'istoria di Paolo Salvi, pur utilizzando un ampio materiale documentario, è inclinata dalla strumentalizzazione antiromana e antifiorentina al punto da divenire una caricatura del concilio. A sua volta, la risposta del Palavicino non si libera dalle provocazioni apologetiche. Se entrambe queste opere trasmettono un'immagine deformata del concilio, asservita piuttosto alla controversia che alla conoscenza storica, l'effetto che esse causano infatti, il papato decide di impedire la consultazione di tutte le fonti relative allo svolgimento del concilio. L'evento conciliare esce così dalla conoscibilità. A fronte di ciò si esaspera l'enfasi sulle decisioni differentine, diffuse e esaltate senza posa come testimoniano le loro ininterrotte edizioni a stato. Il concilio di Trento è identificato tout court con i suoi decreti. Il cordone umbilicale tra i decreti e l'evento conciliare in cui essi sono precisi. La loro interpretazione è severamente controllata da Roma. Non è un caso. Si accendono tensioni pastorali tra alcuni sostenitori dello spirito del concilio, come Paleotti, De Martirico, Romeo, per citare alcuni nomi, da un lato, e la Curia Romana, dall'altro lato. Certo che verso la fine del XVI secolo, con la scomparsa della generazione che ha vissuto il concilio, l'immagine del Tridentino come grande evento corale del cattolicismo romano scompare per essere sostituita dalla meditazione del Tridentino come matrice del cattolicismo moderno. Sempre istruttiva la annotazione di un codice conservato nella Biblioteca Universitaria di Bologna che suona così: chi questo concilio bene studia, il Tridentino, può dire di sapere tutti i concili per il passato celebrati, poiché in ristretto, in esso, tutti si comprendono. Il corpo delle decisioni conciliari è presentato come esauriente, completo, definitivo. Esso costituisce un codice inesauribile prescrizioni per ogni necessità e viene elevato a canone decisivo al quale fare riferimento per tutti i bisogni della vita cristiana. Così, mentre da un lato si ribadisce in modo intransigente l'autorità del concilio, isolandolo sempre più dalla feconda tradizione precedente, da un altro lato ci si orienta ad una interpretazione sempre più larga e libera delle decisioni sia dogmatiche che disciplinari, integrandole secondo principi e prospettive spesso differenti e talora anzi opposti a quelli dei quali il Consiglio aveva preso le mosse. Un personaggio autorevole e non sospetto come Roberto Bellarmino, mentre critica severamente i limiti della fedeltà romana al Fiorentino, proponeva all'inizio del 600 la celebrazione di un nuovo concilio, d'altronde prevista nelle ultime battute del Fiorentino. Propone la celebrazione di un nuovo concilio, mostrando chiaramente come egli sfuggisse alla generale mitizzazione del Concilio di Trento. Invece, il papato, dalla fine del XVI secolo, ha orientato la Chiesa a vedere nel Fiorentino la regola ultima della fede e della disciplina. Le norme precedenti erano inglobate, precisate, rese attuali dal Fiorentino, così che bastava, anzi era preferibile, conoscerle attraverso il filtro operato dai decreti di quest'ultimo. Il corpo dei decreti fiorentini ha escluso progressivamente dall'uso ecclesiastico tutte le altre fonti precedenti. Diveniva perciò doveroso riferirsi al Fiorentino per ricavarne la soluzione di tutti i problemi, vuoi dottrinali, vuoi istituzionali, che si presentassero. Per questa via, il cattolicesimo post-Fiorentino guadagna una compattezza che nella fase acuta della separazione protestante nessuno avrebbe osato credere possibile. Anzi, questo tridentinismo riuscì persino a filtrare, in misura non trascurabile, in certe aree del mondo riformato. Concluso come evento, il Concilio entrava nella storia, ma anche subire un processo di decantazione attraverso l'assimilazione delle sue decisioni nella tradizione ecclesiale, il Tridentino è stato elevato a misura della tradizione stessa, della quale esso filtrava in modo decisivo l'apporto e il contatto con la realtà della Chiesa. Il nuovo sistema ecclesiale, che il deterioramento dell'equilibrio medievale e le nuove esigenze dell'umanità richiedevano, venne così inquadrato al corpo delle decisioni tridentine alle quali veniva riconosciuta una autorità guida, fino al punto che gli elementi costruttivi del nuovo sistema venivano giudicati positivi o negativi in base alla loro conformità a quelle decisioni. È tutto il momento di tornare alla questione cruciale, il significato del Concilio di Trento nella storia dei concili. A 450 anni dalla sua apertura è possibile recuperare l'identità dell'evento tridentino? E cioè è possibile conoscere tale identità al di là delle imponenti incrostazioni storiche prodotte proprio dal successo dei decreti tridentini, evitando l'ingannevole procedimento che vorrebbe risalire dal corpus dei decreti alla realtà dell'assemblea conciliare. È soprattutto a questo scopo che si mostra decisiva la storicizzazione operata da Ieri. Conclusa la sua funzione guida con la svolta introdotta dal Vaticano II, il Grande Concilio continua a rappresentare una tappa fondamentale della storia della Chiesa, almeno in Occidente. Mentre tra la seconda metà del XVI secolo e la prima metà del XX, il contatto della Chiesa con la tradizione cristiana è stato comandato e filtrato dal Tridentino, d'ora in poi la conoscenza e l'incidenza del Tridentino dipenderanno dall'assimilazione che ne ha fatto la coscienza cristiana. Recuperare l'immagine propria del Tridentino è il compito di tutto questo convegno, io credo, e trascendere seriamente i limiti di questa prima esposizione. Mi limito a qualche cenno d'avvio. Mi sembra adeguato prendere le mosse dall'esortazione pronunciata all'inizio del 1546, il giorno successivo all'Epifania, estesa allora da Re Albor, uno dei protagonisti mancati del Concilio, se si desse credito all'equivalenza Concilio-Decreti. Poi invece, a mio modo di vedere, ha segnato non poco il Tridentino e occorre chiedersi se il suo influsso non si allunghi ben al di là del suo ritiro da Trento ancora nello stesso 1546. In quel 7 gennaio, rivolgendosi a nome del Collegio dei Legati al Concilio, nella seconda sessione solenne, proprio voi esorti i padri alla consapevolezza dei propri limiti e soprattutto delle proprie responsabilità per le drammatiche difficoltà in cui versa la Chiesa. Colpisce anche oggi l'impostazione non controversistica dell'intera omelia, tanto più se si tiene conto che si trattava di un atto solenne dei legati papali. Sulla stessa lunghezza d'onda si colloca l'omelia del servito Bonucci, nella quale domina la centralità della fede e della croce, e la stessa perdita dell'unità della Chiesa è correlata ad essa, alla croce. La Chiesa è vista soprattutto come popolo, come famiglia, come corpo di Cristo, cetus omnium fidelium. Infine, i padri conciliari sono esortati a conciliorum servare maiestatem ad ea definienda progredi, quei religionis et fidi et morum, nervos et animam tamum, mentre invece su tutto il resto deve essere rispettata la libertà e il gusto della ricerca. Uno spiraglio per cogliere la distanza che separa le prospettive pastorali dei padri tridentini dai metodi dominanti dopo la conclusione del concilio è offerto dall'orientamento a favore dell'accostamento alla Bibbia piuttosto che ai catechismi, sostenuto nella primavera del 1546, dove l'influsso erasmiano è trasparente. Accanto a orientamenti come questi sono presenti anche prospettive del tutto diverse. C'è chi propone censure nei confronti di Erasmo e dello stesso Pio, nel timore che impostazioni ereniche e comunque non controversiste potessero aprire la strada a infiltrazioni luterane. La preoccupazione e talora la paranoia per influssi ereticali paralizza i fermenti di rinnovamento culturale sospettati per il fatto di essere diversi dalla scolastica, come potenzialmente filo-luterani. Se istanze come questa restano marginali, un peso ben altrimenti maggiore avrebbe esercitato la insistente richiesta di molti dei teologi mendicanti presenti a Trento che si rispondesse ai protestanti con trattazioni organiche a forte andamento filosofico. Per quanto riguarda i problemi teologici sollevati dai protestanti, è agevolmente documentabile il proposito del Concilio di evitare elaborazioni organiche e esaurienti della dottrina per limitarsi a rispondere puntualmente alle contestazioni. Ciò non toglie che in diverse occasioni, e basti qui ricordare il dibattito sui sacramenti e soprattutto il decreto sul sacramento dell'Eucaristia, questo criterio sia stato vulnerato per le pressioni dei teologi desiderosi di far prevalere la propria scuola. Anzi, in qualche caso si è rischiato di venire meno al criterio complementare con il precedente, per cui il concilio non doveva dividere controversie aperte ancora tra i teologi cattolici. È stato invece sempre rispettato un terzo criterio, mi sembra molto importante, per cui si condannavano proposizioni erronee ma non i loro sostenitori, né i concili antichi, né ma a Trento esso fu imposto felicemente dalla politica imperiale. Tuttavia, questi criteri prudenziali non hanno portato il concilio a un confronto diretto e a un dialogo con i protestanti. Ciò che ancora, sino all'inizio degli anni 40, sembrava l'oggetto principale del concilio, auspicato da tutti, sarebbe rimasto un miraggio. A questo proposito, Trento si allontana dalla prassi di parecchi concili antichi e medievali, insieme ai quali il confronto teologico, magari aspro o addirittura drammatico, come a Costanza, aveva pure trovato posto. L'impossibilità di una dialettica dottrinale ha probabilmente agevolato l'egemonia che la scolastica tardo medievale ha cercato di esercitare in tutti i dibattiti teologici conciliari. Era psicologicamente non facile discernere nelle elaborazioni di Lutero e dei suoi l'aspra critica e il rifiuto, ancorché talora più verbale che reale, della scolastica, dalla contestazione delle posizioni teologiche ricevute dai teologi cattolici. Di fatto, le tensioni in seno al concilio a proposito dell'uso o meno dei paradigmi della tarda scolastica è stato vivace e ininterrotto e si è risolto con risultati alterni. Ciò che ha rovesciato l'esito del confronto a favore della scolastica è stata la lettura organicistica dei suoi decreti che dopo il concilio è stata accreditata nel quadro di un pensiero teologico che credeva di dover risolvere i problemi nuovi organizzando le risposte vecchie in un sistema sempre più chiuso. A tal punto, questa operazione che persino storici di grande qualità come l'Orsi e lo stesso Iedin hanno enumerato tra le cause della riforma protestante la teologische Unklarheit, l'incertezza o confusione teologica dominante nel tardo medioevo. Così, mi pare, il pluralismo effettivamente esistente prima del Concilio di Trento veniva connotato negativamente, applicando retrospettivamente l'uniformità determinatasi dopo quel concilio nel clima controversistico della controriforma. Continuo a usare il termine di controriforma, che mi sembra malgrado tutto preferibile a quello di epoca confessionale, almeno al di fuori dell'area germanica. La creatività feconda e multiforme della vita cristiana e della teologia medievale ricevevano con la categoria della teologische Unklarheit una arbitraria qualificazione negativa. Potremmo dire che con l'acqua sporca, cioè la confusione, gli arbitri, gli abusi che si erano diffusi con la decadenza ecclesiastica prima e in occasione della protesta luterana poi, si gettava via anche il bambino, cioè la variegata ricchezza accumulatasi nella Chiesa in tanti secoli. La responsabilità diffusa e policentrica, la molteplicità dei riti, la genialità delle differenti inculturazioni del messaggio evangelico erano l'oscurità. Su questo punto cruciale è urgente e appare storiograficamente fecondo ripristinare l'immagine del concilio in tutta la sua ricchezza. Si è già constatata la fecondità della rivisitazione critica della portata di singoli decreti studentini, è una pista di augurare venga ulteriormente seguita. È noto come nei decenni più recenti la portata del decreto sulla giustificazione sia stata ripetutamente sottolineata e come la decisione tridentina del decreto sulla giustificazione che più di ogni altra propone prospettive e spunti di grande interesse. In quella circostanza la raffinata sensibilità filologica del Cervini si è felicemente coniugata con la raffinata teologia dell'Agostiniano Silvano. Malgrado si trattasse proprio del nodo cruciale della contestazione luterana, la risposta tridentina ha un respiro straordinariamente largo, capace di riecheggiare e valorizzare le percezioni spirituali di quanti, nei decenni precedenti, avevano fatto esperienza interiore del peso determinante della croce del Cristo e della misericordia del Padre. Purtroppo, le remore frapposte dai teologi scolastici hanno impedito al Concilio di riconoscere pienamente alla misericordia divina un rilievo determinante nella dinamica della salvezza. Di conseguenza è stata mortificata anche l'istanza che fosse ammessa la possibilità di avere certezza della giustificazione, istanza luterana, ma non solo luterana. In questi dibattiti conciliari echeggiano dunque ripetutamente sensibilità che possiamo sicuramente chiamare pre-moderne, ancorché mi sembra impossibile non convenire con Iedin quando sostiene che a Trento vi sono stati umanisti, ma non l'umanesimo. Elementi di modernità emergono piuttosto nei dibattiti e nelle decisioni relative alla riforma. Infatti, già nella letteratura sugli impedimenti frapposti all'esercizio delle responsabilità pastorali si mescolano sia nostalgie della cristianità medievale che rivendicazioni di distinzione tra spirituale e temporale. A sua volta, l'enfasi sulla residenza degli ecclesiastici in cura d'arte non aveva un risvolto moderno, forse anche inconsapevole, nel senso della scoperta dell'importanza della territorialità delle istanze burocratiche e ancora una sensibilità per la dinamica sociale e perciò moderna non è rilevante nella disputa tra ostili e favorevoli a nuove norme per la disciplina. Era caratteristico del prevalente immobilismo medievale nella concezione delle società, ritenere che per ottenere l'osservanza di norme violate bastasse reiterare le norme. Lo documentano una quantità incredibile di testi dei sindaci locali. Al contrario, la convinzione che fosse necessario promuovere comportamenti sociali nuovi mediante norme nuove era espressione di una cultura in rinnovamento, forse anche inconsapevolmente. Ciò detto, sarei alieno dall'usare il neologismo globalizzante di disciplinamento per l'opera di riforma del Concilio di Trento. Analogamente, la determinazione di qualità per la scelta dei vescovi di un iter formativo di tipo professionale per il clero, il seminario, erano significativi elementi di uscita dal clientelismo post-feudale. Le burocrazie statali seguiranno, seppure a distanza, il medesimo itinerario. E tuttavia, sarebbe meschino pensare di impostare un bilancio del rapporto tra umanesimo e modernità da un lato e assemblea trentina dall'altro lato sulla base ragionieristica di sintomi negativi o positivi. È invece indispensabile rendersi conto che si è di fronte a un rapporto complesso e multidimensionale. I membri del Concilio hanno respirato l'atmosfera umanistica, hanno percepito la svolta epocale che le loro generazioni stavano vivendo, hanno dato con i loro dibattiti e le loro conclusioni un contributo di prima grandezza a tale svolta. Solo una storiografia rozza, ideologicamente inclinata, potrebbe pretendere di attribuire o di negare una patente di modernità al Tridentino. Ciò che si può affermare con certezza è che il Concilio ha percepito la drammaticità della congiuntura storica che il cristianesimo occidentale stava attraversando. Ha accettato di avviare il cattolicismo romano verso il futuro, anche se solo a tratti ne ha saputo intravedere la fisionomia. Mi sembra che un avvertito lavoro di riscoperta dell'evento conciliare, condotto con particolare acribia, possa dare frutti considerevoli. Non si tratta certo di cancellare, né di ridimensionare l'imponente impatto avuto dalle decisioni tridentine durante almeno 3 secoli, e neppure di mettere sotto accusa il complesso sistema del tridentinismo che ha plasmato il volto del cattolicismo moderno in nome della valorizzazione, frequentemente anche molto disinvolta, del prestigio guadagnato dal Tridentino. Piuttosto, una riscoperta dell'evento tridentino nelle sue ricchezze, nelle sue contraddizioni, nella sua incessante dinamica può dare un apporto conoscitivo rilevante in sé, ma importante anche per cogliere nelle sue dimensioni proprie la secolare fase dell'applicazione delle decisioni conciliari. Una conoscenza più ricca dell'evento conciliare consente di collocarlo meglio nel contesto storico, sociale e culturale, oltre che ecclesiale, nel quale è stato celebrato. Su questa base, la formazione delle decisioni può essere seguita nel suo sviluppo, evitando il semplicismo emeneutico che troppo spesso ha voluto leggere i decreti conciliari come formulazioni asettiche esistenti fuori dal tempo e dallo spazio. Ma soprattutto è possibile riguadagnare quel di più che, pur non solidificandosi nel testo delle decisioni e pertanto risultando inafferrabile all'analisi del corpo dei decreti, ha costituito un fattore dell'humus del Concilio e del suo spirito. Superare l'identificazione del Tridentino con le sue decisioni, riconoscere che il Concilio è stato più ricco e più articolato dei testi che ha approvato, costituirà un progresso reso possibile dalla accessibilità delle fonti operate dalla Görlitzgesellschaft e dagli Edin con la sua insuperata ricostruzione storica. La riconoscenza delle nuove generazioni può esprimersi con questo ulteriore passo avanti. Un passo avanti innescato dal nuovo scatto della storicizzazione del Concilio di Trento operato dal nuovo Concilio di Vaticano II. Ahimè, 30 anni fa ho messo in evidenza questa connessione. Qui aggiungo solo che ciò che emerge anche nel linguaggio, cioè nel diverso uso dei due sostantivi di applicazione e ricezione. Qui ritorno vicino all'amico De Rossi. quando il 4 dicembre 1563 i padri tridentini approvarono il decreto de Cipiendis et Observandis Decreti Concili, essi parlarono di recepzio, ma successivamente si è iniziato a parlare di applicazione o attuazione con una trasparente evoluzione semantica. Infatti, la ricezione supponeva un soggetto attivo che in prospettiva non poteva essere che l'intera congregazione fidelium, secondo un ritmo ascendente e dalla periferia verso il centro e dal basso verso l'alto. Applicazione e attuazione invece sottintendevano un processo nel quale la congregazione fidelium sarebbe stata destinataria passiva, come effettivamente è avvenuto, di iniziative centralistiche e autoritarie. Il passaggio coinvolgeva un riferimento privilegiato al corpus delle decisioni piuttosto che all'evento conciliare assunto in tutta la sua complessità. Confrontato con altri concili, il Tridentino ha lavorato con grande libertà, nella misura in cui non era condizionato da schemi predisposti fuori dal concilio e presuntivamente approvati dal Papa. I condizionamenti romani e quelli politici sono stati ciò considerato, a mio modo di vedere, abbastanza modesto. Fortissimo invece il condizionamento esercitato dal di dentro, dalla tarda scolastica, tanto più in quanto ostracizzata e demonizzata dall'Opero. Il Tridentino ha svolto una funzione storica decisiva, invertendo la tendenza alla dissoluzione che stava disintegrando il cattolicesimo romano, tanto sotto le denunce protestanti che per interiore friabilità. Al limite ci si deve chiedere se una consapevolezza più articolata dei problemi allora in gioco non avrebbe indebolito l'adempimento di questa funzione storica. Da parte sua, la successiva attuazione ha modellato un'immagine irrigidita e intransigente del Concilio, maggiorandone alcune componenti e emarginandone altre. La domanda oggi più scottante è: dato che con il Vaticano II i conflitti ai quali il Concilio di Trento ha esposto sono disinnescati, i suoi anatemi, che mi si consenta di dire avevano valore di accertamento del dissenso rispetto al magistero e non riguardo alla tradizione di fede, sono storicamente decaduti quegli anatemi? Le formulazioni conciliari, sempre intese dai padri come risposte ai problemi suscitati dai protestanti, sono state intese solo dopo il concilio come definizioni assolute e definitive. Proprio la fermezza del Tridentino nel sancire le divisioni in obbedienza a una congiuntura storica lacerante consente ora, in un clima rovesciato, le convergenze, consente cioè una serena rivisitazione che riesamini quelle formulazioni nello stesso spirito che le ha ispirate, e cioè la ricerca del bono animale. Proprio nella prospettiva della grande tradizione conciliare cristiana si deve essere consapevoli che la ricchezza di ogni concilio non può essere fissata una volta per tutte e rigidita in una sola chiave interpretativa. Non lasciamo che il Tridentino si è seppellito con la gloriosa ma tramontata stagione post-tridentina.